Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Il secondo appuntamento di questa settimana con l'Adico è con il presidente Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao Mirko, saluto a tutti gli ascoltatori. Oggi allarghiamo lo sguardo all'Europa, insomma, dalla quale è sempre bene prendere esempio. Noi cerchiamo di farlo anche per cose buone, insomma. Che indicazioni arrivano dalla Commissione europea? Ma diciamo che qualche anno fa si è riunita proprio la Commissione europea, che finalmente ha deciso di proporre nuove forme volte ad aumentare la sicurezza dei prodotti di consumo che circolano nel mercato unico. Quindi un maggior controllo, maggior sicurezza, ma soprattutto anche potenziare la vigilanza. Ricordiamoci però che questo è una cosa che andrà a regime da qua al 2015 ed è un'iniziativa rivolta ai prodotti non alimentari. Prodotti non alimentari. Ogni giorno noi leggiamo dalla cronaca sequestri della Guardia di Finanza di merce che non ha il famoso marchio CE, che non ha le indicazioni di origine, i componenti e quant'altro. Quindi vuol dire che merce tarocca e poco sicura in giro ce n'è tanta, e questa normativa è utile, insomma, per la sicurezza di tutti. Beh, certamente è una normativa che fa dei notevoli passi in avanti, certamente dovremo avere un po' di pazienza perché andrà a regime entro il 2015 ed è un'iniziativa che è articolata in 20 azioni che da subito, come detto, nei prossimi 2 anni e mezzo dovrebbe completarsi, quindi ci auguriamo che la politica in questo senso non vada a rallentare questo processo, ma che anzi si possa attuarlo il più velocemente possibile, perché poi ci saranno i singoli paesi dei stati membri che dovranno recepire direttive. Però è un'iniziativa che sicuramente va a creare una maggior protezione ai consumatori, va a salvaguardare quella che è la tracciabilità dei prodotti, soprattutto cercherà di velocizzare quelle che sono un po' le metodologie di intervento, quindi anche quelle del ritiro dei prodotti, e soprattutto andrà anche a vigilare, ed è questa la cosa più importante, su quelli che sono i prodotti di provenienza da parte dei paesi che non fanno parte della comunità europea. Eh sì, la provenienza, poi, senza colpevolizzare, ma è un dato di fatto della cronaca, soprattutto la provenienza asiatica, insomma, è quella più grossa ed è quella che è meno norma di tutte. Certo, noi sappiamo che oggi uno dei motivi principali per cui il mercato sta soffrendo una grossa crisi non è solo quella economica, ma è anche quella della contraffazione. Credo che chiunque di noi gli sia capitato di passeggiare su una qualunque città d'arte abbia trovato ormai questi marocchini che vendono di tutto, ma sappiamo che ci sono anche i cinesi che propongono nel mercato ogni sorta di marchio. Ed è anche vero che oggi riuscire a distinguere un prodotto contraffatto da un prodotto originale è veramente, veramente molto difficile, e veramente bisogna sempre essere sempre più degli esperti. Con questa iniziativa probabilmente la comunità europea ha voluto cominciare ad affrontare il problema seriamente, soprattutto anche per salvaguardare appunto sia il consumatore finale, ma anche le imprese che operano correttamente, vogliono e che operano correttamente in un mercato che in questo momento sappiamo che è molto difficile, ma che è giusto venga salvaguardato, e quindi si sentono in una certa maniera un po' anche premiati su quella che è la qualità del lavoro che offrono, e perché sappiamo che quando si parla di prodotti non alimentari comunque ci sono sempre dei rischi legati anche qui alla salute, e ci sono anche delle normative molto delicate anche quando si parla non solo di componentistica intesa come materiale, ma anche per quanto riguarda quella elettrica, che può comunque essere molto pericolosa anche per i bambini. La sicurezza, le vernici, i materiali, la dimensione dei pezzi, dei componenti, insomma le voci sono tante, quindi vantaggio per i consumatori, vantaggio anche per le imprese che producono. Certamente è un vantaggio che porterà importanti benefici, come detto, e soprattutto potenzierà molto quelli che saranno gli organi di vigilanza, perché saranno molto più efficaci e soprattutto saranno molto più vigili rispetto a quelli che oggi ci sono dei controlli che sono un po' lasciati al paese singolo rispetto che a una comunità intera. quindi probabilmente questa normativa qua, questa idea di cominciare a intervenire anche su quella che è una tracciabilità di prodotti che non siano solo alimentari, comincia a essere veramente un passo significativo verso quello che sia una regola importante che oggi si ha bisogno, ed è quella della correttezza, della lealtà e della sicurezza che i prodotti devono avere quando circolano liberamente in quello che è un mercato unico come quello della Comunità Europea. Diamo dei consigli pratici, insomma, per i nostri ascoltatori, per i consumatori. Cosa fare per evitare di incappare in prodotti non sicuri, non certificati? Beh, oggi i consumatori la cosa più importante che devono continuare a fare è quello di acquistare prodotti che hanno sempre il marchio CE, quindi quello che certifica che poi il prodotto è stato realizzato secondo i carismi imposti dalla Comunità Europea. Poi per quanto riguardano quelli che hanno parti elettriche c'è il marchio IQ, che quindi attesta che il prodotto è fatto con la qualità che è necessario avere per garantire quella che è la sicurezza dell'utilizzatore, e dopodiché è sempre importante ricordarsi che ci devono essere le etichette contenenti tutte le indicazioni che il prodotto deve avere, e soprattutto ci deve essere sempre la traduzione in italiano di quella parte di etichetta che ciascun consumatore deve imparare sempre a leggere attentamente. Poi nel dubbio o qualsiasi altra domanda che il consumatore può avere, sa che comunque ci sono i NAS per i generi alimentari e per quanto riguarda la contraffazione, mentre ci sono associazioni di consumatori e vigili come referenti nel territorio. E da ultimo ricordiamo sempre al consumatore di diffidare da quelli che sono anche certi prezzi stracciati che certi articoli vengono proposti, perché sappiamo che la contraffazione, come hai detto tu, soprattutto quella asiatica, spadroneggia molto, perché soprattutto nel momento di crisi vediamo che i consumatori sempre più attratto a fare qualche buon affare comprando degli articoli che si propongono nel mercato a bassissimi costi rispetto a quelli tradizionali. Prudenza e occhi aperti dunque, grazie all'Adico che ci dà supporto anche su questo tema, grazie al presidente Carlo Garofolini, alla settimana prossima. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti gli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.